Friuli nel mondo. La sagra dei Josei di Sacile. 26esima trasmissione dedicata agli emigrati. Della prima domenica dopo il Ferragosto a Sacile. Nel biancore antelucano, le voci delle campane di San Nicolò salutano il giorno festivo confuse al preludio canoro della tradizionale sagra dei Josei. Antica di secoli, la concesse un patriarca di Aquileia nel 1334, la riconfermò ancora un patriarca nel 1351, essa richiama ogni estate nella città, non a torto chiamata Giardino della Serenissima, migliaia di uccellatori e di uccelli. Ne sono ingombri i portici della piazza, ne sono pieni gli improvvisati assiti frondosi che occupano il lato non battuto dal sole. Uno spettacolo dei più gai, dei più divertenti. Vita breve alla sagra. Nata all'alba, è già finita a metà mattina, ma sin dalla sera precedente i cantori sono ai loro posti. Sono giunti da vicino e da lontano, sui carretti o portati a spalle, in lunghe file di gabbie appese a stanghe. Sono arrivati uno dopo l'altro i più celebri allevatori. Con essi sono scesi dai monti anche i ragazzini che fanno il piccolo commercio, e ciascuno con la sua gabbietta, con un cardellino o un codirosso o una calandra, o un ciuffolotto dal cappuccio nero e dal petto color dell'aurora. Piazza irrequieta, caffè luminosi, trattorie aperte, Marinsanudo avverte che in Sacil sono buone e perfette osterie. Gli artisti non hanno pazienza di aspettare. Hanno cominciato già tra il lusco e il brusco a provare la voce e a fare le ricercate. Si odono pispigli, zirli, chioccolii, ciarlette liquide al buio. Poi uno canta apertamente e un altro non vuole essere da meno. Ed altri ancora, dai carretti che scoccano sulla piazza, vogliono far sentire che ci sono anch'essi. Ogni minuto desta e aggiunge una voce. Gli espositori sono sicuri, ma nervosi. Ansie e tormenti dell'attesa, del passaggio cioè della giuria che con una serietà da tribunale togato dovrà pronunciarsi sulla bravura dei singoli cantori a concorso. Fioriscono i primi affari. No, mi ha dato sto tordo o no? No, non lo do il tordo. Dammelo, te davo 35.000. No, mi dai 40. Guarda chi è Beschei, dammelo porco Giuda. No, voglio 40.000 lire. No, dammelo mi. 40.000 lire, le ho un tordo che viene dal Consiglio. Te davo 38, batti qua, no, batti niente, qua, te davo 38. Fatto, niente. Fatto. 40.000 lire. Fatto e basta. No, non voglio. Garanzie, garanzie. Garanzie, ciao. Garanzie, ti garantisco. 14 notte dal tordo. La folla frattanto cresce a dismisura. Impossibile muoversi se non a lenti passi nella leggiadrissima piazza che torno torno accoglie attrezzi per uccellanda, mangimi, gabbie dalle gretole di ferro o di legno, barili di vischio odoroso. Il cielo, fattosi più chiaro, accende le case rosate dalle trifore armoniose, restituisce agli uccelli ingabbiati i loro variopinti colori.